A tempo di sport di Gigi Garanzini. L'appuntamento del martedì serve generalmente a marcare le distanze tra il nostro e l'altro calcio, sul piano della spettacolarità, della correttezza, dell'educazione. Stavolta invece quello di oggi serve a, come dire, a ricordare che in fondo mal comune è mezzo gaudio, perché in Europa in questo fine settimana, ieri sera compreso, ci sono stati episodi che sembrano appartenere più al repertorio nostro che a quello del calcio internazionale e anglosassone in particolare. Bentornato a Fabio Tavelli. Grazie, buongiorno a tutti. E ti lascerei la scelta su dove cominciare, perché da dove cominciare, perché insomma tra la simulazione di un giocatore del Liverpool, tra le io partirei da lì. Da lì. Allora cominciamo da lì. Da ieri sera. Secondo me questa è proprio uno dei vezzi peggiori, perché le critiche, quelle fatte poi dai dirigenti e dagli allenatori, dai presidenti così, ci possono stare, soprattutto sugli allenatori quando vengono magari bersagliati di domande a fine partita, però la simulazione in campo è veramente uno dei modi più odiosi per farsi vedere nella maniera peggiore, e quello che ha fatto Ngog ieri sera io credo che sia davvero una cosa, non so se ereditata da un altro tipo di calcio o quant'altro, è abbastanza sicuro che da oggi Ngog è un giocatore sul taccuino di tutti gli arbitri, nel senso che poi gli sarà difficile ottenere anche un minimo calcio di punizione. Lo racconto brevemente: la partita era il Monday night tra il Liverpool e il Birmingham City, il Birmingham City era in vantaggio per 2-1 ad Anfield, e nel secondo tempo, solito classico assalto del Liverpool, un Liverpool che quest'anno comunque è in grossa difficoltà e credo che uscirà presto dalla Champions e presto anche dalla corsa al titolo. Niente, Ngog si libera sulla sinistra di un difensore, va profondo, quasi sulla linea di fondo, viene contrastato da un difensore del Birmingham City, il quale entra in tackle ma non trova la palla, e Ngog, prima ancora di avere anche la sola possibilità di essere sfiorato dal difensore, fa un volo in aria, veramente poi al replay anche ridicolo sotto certi aspetti. L'arbitro non è in una posizione ottima, perché forse è anche un po' impallato da un altro giocatore. Tutti i giocatori del Birmingham vanno sia dall'arbitro che da Ngog a dire, quando l'arbitro indica il dischetto del rigore, dicono tutti a Ngog, diglielo che hai simulato, diglielo che hai fatto un tuffo. Addirittura il difensore del Birmingham a un certo punto ha detto, ho chiesto all'arbitro di cacciarmi, perché io sarei stato da espellere, forse sarebbe stato solo da ammonizione. Ha detto, mi sarei sentito meglio ad essere espulso, invece almeno questo al Birmingham è stato risparmiato. Ngog si è portato a casa il calcio di rigore, Gerrard l'ha battuto, e oggi tutti i tabloid inglesi aprono e scrivono su questa vergogna autentica, e ovviamente anche Benitez nel dopopartita ha ammesso che, insomma, che questo rigore non c'era. Questo è il primo brutto capitolo, che sì. tra l'altro poi hai detto bene all'inizio, in Inghilterra, all'estero si pagano queste cose. Pagano parecchio, tu ogni tanto racconti di Ravanelli in Francia, ma è così, è accaduto anche per altri. Spesso accade con giocatori non indigeni, quindi o non francesi nella Liga 1 o non spagnoli in Spagna, dove però in realtà sono un po' più tolleranti, con gli inglesi sarebbero molto più massacranti. Sì, qua ti danno le medaglie poi nei club dei tifosi, no? Sì, perché appunto hai lucrato un calcio di rigore. Perché passi per un furbo, perché hai lucrato un punto. Ma questo è anche lo spirito del paese. In Inghilterra queste cose si paghino, speriamo che la paghi cara questo, perché ha avuto Perché Gigi è giovane e forte, perché lui ha fatto il gol dell'1-0, un gol strepitoso, ha tirato una sassata di sinistra sotto la traversa, un bellissimo gol. Questo è uno capace. Sì, quindi non ha bisogno di questi. Non dovrebbe aver bisogno di questi mezzucci. Sì. Tutto il mondo è paese anche per Chelsea Manchester United, nel senso che a parte una direzione arbitrale, insomma, molto discutibile, ma il modo in cui poi Ferguson e forse anche lo stesso Rooney, che stanno, mi pare, rischiando tutti e due una squalifica. Per dichiarazioni successive, il modo in cui si sono scagliati sull'arbitro, ha ricordato metodologie nostrane. Sì, devo anche dirti che, non lo so, a me Rooney ha ricordato come ha protestato Anelka in Champions League contro il Barcellona, quando ci fu quella direzione di Ovrebo, francamente discutibile. Sì, Rooney ha fatto una cosa, se vuoi anche divertente, ma molto offensiva, perché ha detto hanno giocato in 12 e ha scritto a penna sulla formazione del Chelsea il nome dell'arbitro. L'arbitro ha sicuramente commesso gli errori, e probabilmente Ferguson ha ragione nel dire che sia nell'occasione del calcio di punizione battuto dal Chelsea, che anche nella dinamica del colpo di testa di John Terry ci sono due situazioni non corrette che probabilmente andavano sanzionate. Non è la prima volta, onestamente, che Ferguson critica gli arbitri, la verità. Anzi, Ferguson ha quasi una sorta di salvacondotto nei confronti degli arbitri, e spesso sia Wenger che Benitez, ma anche Mourinho ai suoi tempi, questo lo faceva notare abbastanza pesantemente. Insomma, questi tre che ho citato, più Mourinho come past, sono allenatori di grande personalità e che spesso hanno una tutela eccessiva, magari, o sicuramente superiore ai colleghi quando si muovono sulla panchina o quant'altro. Ferguson non è uno che parli molto in campo, è uno che si sente abbastanza poco, anzi spesso fa dare ai suoi assistenti le indicazioni di campo e anche le proteste se le risparmia, sta sempre due o tre file dietro, però poi va in conferenza stampa e tira delle discrete sberle. Credo che possa venire squalificato per questo. Arriviamo, per saldare poi il cerchio con il nostro calcio, arriviamo al Bayern Monaco, arriviamo a Toni. Toni viene sostituito sabato da Van Gaal nel corso della partita con lo Schalke 04. Si cambia e lascia lo stadio. E va a casa. E va a casa serenamente, senza nemmeno vedere finire la partita, senza salutare. Pare, non so poi la cifra esatta, secondo indiscrezioni, pare che questa bravata gli costi 50.000 euro, che non sono pochi, ma che comunque possono sempre servire anche in età matura a ripassare i fondamentali dell'educazione. Io sinceramente posso pensare tutto, ma non che un giocatore sostituito non veda il secondo tempo. Oddio, può anche non guardarlo, cioè può star lì e non guardarlo, può far finta di guardarlo, cioè ci sono mille modi per mostrare il proprio disappunto. Quello migliore magari sarebbe aspettare il lunedì o il martedì e parlare con l'allenatore, però diciamo che stiamo sempre parlando di ragazzi. Toni ha fatto una cosa molto scorretta, credo che lui stia cercando anche un casus belli per rompere col Bayern di Monaco, per tornare in Italia a gennaio e per giocarsi qualche chance, non sono moltissime, di andare ai mondiali con la nazionale. Lui ha avuto seri problemi fisici all'inizio di questa stagione e seri problemi anche ambientali con Van Gaal. Onestamente può accadere nella carriera di un giocatore di trovare un allenatore che non ti vede, che non ti stima, che non ti apprezza, perché ha tutti i modi per qualsiasi motivo, non voglio dar ragione né a Van Gaal né a Luca Toni. Toni ha giocato dal primo minuto, è stato sostituito, i giocatori non sono mai contenti né quando stanno fuori né quando vengono sostituiti. Certo. Non credo abbia mancato solo di rispetto a Van Gaal e alla società, abbia mancato soprattutto di rispetto ai suoi giocatori, perché per uno che esce ce n'è sempre uno che entra. Certo. E quindi tornare nello spogliatoio del Bayern di Monaco, secondo me, oggi o domani, quando accadrà, per Luca Toni non sarà facile. No, anche perché poi sullo sfondo c'è il dato non trascurabile, che sono alcuni mesi che non la becca mai e si sta sui mesi per stare abbastanza leggeri. Sì, con qualche ovviamente scusante, gli infortuni, tutto il resto, però anche quando ha giocato non si è mai fatto rimpiangere. Un paio di domande per Fabio Tavelli. La prima, Stefano, un bresciano, danno il ben servito prima a Van Gaal o a Benitez? Buona domanda, credo che... Guarda, i tedeschi hanno la possibilità di fare una pausa molto lunga, quindi secondo me il Bayern di Monaco, che negli ultimi anni non è che ha brillato per rigore, perché è una società seria, certamente più seria della media, ma ogni tanto la finzione gli è scappata. Però io credo che se Van Gaal non combina disastri nelle prossime 2-3 settimane, lo facciano, provino a dargli almeno la pausa invernale per ricostruire un po'. Insomma, Benitez non lo so, perché in realtà in Inghilterra è un po' più complicato, perché l'allenatore li fa anche il manager, dovresti avere un'alternativa. Io ho letto anche di alternative che riguardano allenatori che da un paio d'anni non stanno più nel campionato italiano e potrebbero essere affascinanti e interessanti. Secondo me cominceranno a pensarci nel momento in cui il Liverpool sarà fuori dalla Champions League, quindi direi fra 3 settimane, grosso modo. Se continua così, però, Benitez non arriva al Boxing Day, cioè alla partita del 26 di dicembre. Gabriele ti domanda come ha giocato Aquilani in questi, mi pare, ha giocato talmente poco, è entrato nei minuti finali, quindi direi ingiudicabile, però l'hanno accolto molto bene, sia nella partita di Coppa contro l'Arsenal, gli hanno anche esposto degli striscioni molto molto simpatici e anche poi ieri sera. Sono anche convinto che poi la società già da un po' stia cominciando a chiedere conto a Benitez di quella spesa per Aquilani, che comunque è rientrato, ma sta rientrando a spizzichi e bocconi, quindi quando gli inglesi pensano di cacciare un allenatore non lo fanno solo ed esclusivamente per il rendimento in campo, ma lo fanno anche per quanto hanno fatto spendere agli azionisti, e Benitez in queste stagioni non è che è stato parco. Vero, hai parlato di Coppa, certamente non è la Coppa Campioni, ma Mi pare che stasera al Bernabeu succeda qualcosa di suggestivo, ma anche di ridicolo, di incredibile, se vogliamo. Guarda, no? Secondo me questa è la partita della settimana, e non perché sono fermi i campionati, no, perché comunque ci sono delle partite importanti, anche quelle nazionali, però insomma io mi entusiasmo di più sulle coppe già da un po' di tempo, per cui anche la Coppa del Re secondo me merita di essere vista, al di là del fatto che la trasmettiamo noi, e mi perdonerai questo vergognoso promo, però Alcorcón ha vinto 4-0 all'andata, cioè, l'Alcorcón gioca... Scusa un istante, perché leggermente stavo leggendo un messaggio bellissimo che dopo ti leggerò. La okay. Trasmettete voi a che ora? Alle 20, noi facciamo alle 20 il Real e alle 22 il Barcellona, alle 20, mentre il Barça... Real Alcorcón, hai ragione, questo è il clou della settimana. È il clou della settimana, perché per quei 2-3 che non lo sapessero, l'Alcorcón, che tra l'altro geograficamente è nei dintorni di Madrid, diciamo come fosse Monza per dare una connotazione anche con una squadra. Una squadra di terza divisione, che tra l'altro è anche al sesto, settimo posto, quindi neanche la prima, nella gara d'andata di Coppa del Re vince 4-0, ma non contro i nipotini del Real Madrid o la squadra B del Real Madrid, contro il Real Madrid vero, cioè quello che ha vinto il derby con l'Atletico, più o meno è la stessa formazione. E quindi immaginati tu Florentino Perez, poi oltretutto non dimentichiamoci che Coppa del Re in una città come Madrid non è poco sentita, cioè nel senso che... Con il re vero tifoso del Real, tra l'altro. Con il re vero, esatto, con il re con la corona, per cui ecco. Il Real Madrid questa sera deve vincere 5-0. La cosa divertente sono stati ieri i giocatori dell'Alcorcón che sono arrivati al Santiago Bernabéu, hanno fatto un giro al museo che è bellissimo al Bernabéu. E si sono fatti tutti fotografare vicino alle coppe dei campioni, vicino alle foto dei grandi, dei grandissimi, del Real, dicendo tutti noi non abbiamo paura, però ti assicuro che se li guardavi negli occhi un minimo di tremore lo provavano. Quindi la curiosità di questa sera secondo me è di vedere i primi 20 minuti, cioè se nei primi 20 minuti il Real Madrid gliene fa un paio, allora credo che andremo alla valanga e quindi il Real Madrid potrà passare. Se l'Alcorcón passa indenne quei minuti e magari non si rintana tutto nei propri 16 metri, perché in difesa il Real Madrid un gol lo può sempre prendere, allora magari possiamo vedere anche una partita divertente. A me ricorda quella partita che giocarono 20 anni fa a Milano di basket, Milano contro l'Aris di Salonicco, quando Milano perse di 31 nella gara d'andata e vinse credo di 33 alla gara di ritorno. Cioè sono quelle partite così, tenendo presente che in quell'area di Salonicco giocava Nick Galis, che era uno dei più forti giocatori d'Europa in quel momento, cioè era una signora squadra. Però in questo momento i 4 gol che l'Alcorcón deve difendere fanno sì che il Real Madrid debba dimostrare di essere galattico, se mi passi di nuovo questo termine bruttissimo. Anche perché se va fuori il Real Madrid questa sera, secondo me Perez comincia a pensare male di Pellegrini. Io sono per un 6 o un 7-1, così. Credo anch'io che finirà tanti a pochi, bisogna vedere quanti. Maurizio Robaldo scrive: Ferguson un po' parla in campo, ma soprattutto mastica fastidiosamente. Questo è effettivamente un particolare che io lo dico da fumatore, quindi non vale, ma a me esteticamente darebbe meno fastidio uno che fuma. No, ma anche perché in panchina fumare, che non uno... si può fumare in panchina. No, certo, lo so che non si può. No. Ma tra un, diciamo, un fumo sobrio e magari non troppo ostentato, e questo che sembra che ogni volta a ogni masticata, cioè, c'è dentro la dentiera, le tonsille, fastidiosissimo. Diciamo che non è bellissimo, mi dà il destro per ricordare la più bella scena del fine settimana, cioè quel ragazzo di colore che si lava i denti in tribuna a Stamford Bridge dietro la panchina di Ancelotti su un cambio. Memorabile. Per tutti i tuoi ascoltatori andate a cercarvelo su YouTube, perché è veramente memorabile. Memorabile. Senti Fabio, chiudiamo con un minutino circa, chiudiamo con questo 5-5 di Lione-Marsiglia domenica in campionato. Lo dico, insomma, il calcio francese è un po' meno seguito da noi, però una partita di vertice che finisce 5-5 e che si gioca a Lione, l'ospite è il Marsiglia, a un certo punto sono 2-4, poi dal 2-4 il Lione passa al 5-4 e viene rimontato da un autogol di Turalan già in recupero per il Marsiglia. In Francia sono impazziti per questa cosa, poi ti leggo altri punteggi. No, ma tra l'altro il campionato francese, soprattutto, lo dico a beneficio di chi scommette, è stato sempre definito il campionato degli under, cioè delle partite che non finiscono mai con 3 gol o più di somma totale, nel senso che è sempre stato un campionato abbastanza povero. Sì, certo, molto ultimamente è successo davvero di tutto, e quindi questo 5-5 è una partita veramente pazzesca, nella quale davvero abbiamo visto di tutto, ma la consideravamo chiusa in un senso e poi la riconsideravamo chiusa nell'altro. Cioè, onestamente credo che negli ultimi anni questa nel campionato francese sia stata la partita più divertente in assoluto. Ma devo anche aggiungerti questo, che è proprio bello il campionato francese quest'anno, perché se guardi la classifica è tutto diverso rispetto agli anni passati, e quindi insomma, finalmente anche i francesi si possono un po' divertire. È un po' calato il Lione, per fortuna, sono cresciuto il Bordeaux, è tornato un po' sul Monaco, c'è questa sorpresa del Montpellier e poi c'è questa follia che hai raccontato tu, perché se non è un po' folle il calcio, questi punteggi non li scrive. Non escono mai. Grazie Fabio. A voi buona giornata. Chiudiamo questo collegamento con Sky Sport 24. Franco Piantalida mi ha procurato un po' di punteggi. Ha ragione Fabio Tavelli a dire che il campionato francese è spargnino, si segna abbastanza poco. Infatti per trovare 10 gol nella loro Ligue 1, cioè nella loro Serie A, bisogna tornare a Nîmes Metz dell'83-84, sono 25 anni, che finì 3-7 addirittura. Poi ci sono 4 altri 5-5 della storia del calcio, ma il più recente risale al 1957. E c'è, a proposito di, non so, rimonte, tipo quella a cui è chiamato stasera Real Madrid, c'è nell'85-86 un Monaco Bordeaux 9-0 in campionato in Serie A. Insomma, non è un punteggio da poco, anche perché si sta parlando di due signore squadre, e in quegli anni il Bordeaux, tra l'altro, era arrivato, se non sbaglio, a una semifinale di Coppa Campioni con la Juventus. Se non era l'86, poteva essere l'84 o forse era l'85, quella che poi culminò nella Iselle, ma comunque stiamo parlando di due squadre di alto livello quell'epoca. Francesco ha chiamato da Napoli, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Dica. Allora, signor Garanzini, volevo la sua opinione riguardo a questo argomento. Allora, io sono un amante del calcio e dello sport, ma se c'è una cosa che proprio non sopporto, che fanno i calciatori, è quando loro perdono tempo. Tutte le furberie, quando per esempio fanno finta, ingigantiscono un infortunio, oppure quando magari vengono sostituiti, le vede. Quando la loro squadra vince, escono a uno all'ora dal campo. Quando la loro squadra perde, invece, sembrano mennea. Le volevo chiedere, onde evitare questi comportamenti che secondo me sono anche poco sportivi e scorretti, lei sarebbe favorevole magari all'introduzione del tempo effettivo nel calcio, vale a dire non più due tempi da 45 minuti, ma magari due tempi da 30 minuti, così noi sappiamo di vedere un'ora di calcio giocato, anche perché poi il calcio è uno dei pochissimi sport a squadre in cui non c'è il tempo effettivo. Cioè il tempo effettivo sta nel basket, nella palla a nuoto, nella palla a nuoto. Per questo il calcio dal mio punto di vista è più bello, perché io credo che da un punto di vista regolamentare si sia fatto molto negli ultimi anni. Molto non vuol dire il tempo effettivo, molto vuol dire un vero e congruo recupero sia alla fine del primo tempo che soprattutto alla fine del secondo. Gli atteggiamenti dei calciatori in genere sono migliorati, c'è una batteria di palloni intorno al campo che fa sì che non ci siano più quel genere di perdite di tempo per accattapalli distratti, ovviamente distratti quando conviene, alla squadra di casa insomma, e altre furberie del genere. A me sembra che oggi, tutto sommato, questo non sia un serio problema, mi pare ce ne siano altri. Questo è stato affrontato in tempi passati e certamente non risolto alla perfezione, perché la perfezione non esiste, ma mi sembra sia abbastanza ben neutralizzato. È uscita un'agenzia con delle dichiarazioni di Lippi rilasciate poco fa al ritiro azzurro della Borghesiana in vista delle amichevoli che l'Italia giocherà nei prossimi giorni, la prima contro l'Olanda sabato sera. È esagerato, ha detto Lippi, parlare di giovani calciatori immaturi. A me invece piacciono molto. Non possiamo pretendere che oggi un ventenne sia uguale a un ragazzo di 30 anni fa. Sono figli dei tempi e anche se non hanno grandi esempi li trovo intelligenti, maturi e pieni di passione. La polemica era scoppiata 2 settimane fa, prosegue l'Ansa, quando Mourinho aveva parlato di una generazione di calciatori non pronte e a lui si erano accodati altri allenatori di Serie A. Era un discorso che riguardava Balotelli e Santon, unici due italiani in lizza per una maglia da titolare nell'Inter e ora lontani dalla possibilità di un posto in nazionale. Mi spiace per Santon, ha detto Lippi, gioca poco e per sperare di arrivare al Mondiale deve giocare un po' di più. Sulla maturità di Balotelli non metto bocca, dico solo che tutte le volte che lo vedo in Trump, che lo vedo entrare in campo fa cose importanti. Allora sentiamo per ricostruire che cosa aveva detto Mourinho su Balotelli la sera di domenica e che cosa gli ha risposto ieri Moratti. Prima Mourinho. Ho cercato di fare tutto, ho cercato di seguire diverse strategie, ho cercato di essere più vicino, più lontano, più dolce, più aggressivo. Ho giocato tutto che avevo per giocare, adesso mi aspetto da lui. È così, da Mario è così, in questo momento entra in campo e noi non sappiamo mai quello che può dare la squadra. Può dare tanto, può dare niente. È un po' questo. E, chissà, voi potete essere un aiuto importante per me. Chissà la stampa essere più vicina alla mia opinione, essere più vicina alle mie strategie, chissà riusciamo a farlo. Sì. L'aiuto, chiedere aiuto alla stampa, veramente il pudore alle spalle. Sentiamo come gli ha risposto, no, non gli ha risposto, ma insomma, che come è intervenuto ieri sull'argomento Moratti. Io credo che lo faccia sempre per mettere in condizione Balotelli di capire che ha detto, anche col talento che ha, può fare sinceramente molto di più. Comunque ha fatto quello che insomma era necessario nel secondo tempo per vivacizzare un po' più l'attacco, insomma, Balotelli. Sulla maturità di Balotelli, ripeto, l'ho appena detto Lippi, non metto bocca, dico solo che tutte le volte che lo vedo entrare in campo fa cose importanti. Per la verità non ha fatto niente di particolare contro la Roma, però era la sua terza apparizione consecutiva e sono tre mezze partite giocate, mi pare sia stato assolutamente decisivo contro il Palermo, ma proprio da aver vinto la partita da solo nel primo tempo. Mi sembra che abbia cambiato notevolmente le carte in tavola entrando nella ripresa a Kiev e mi sembra che abbia sbagliato invece il secondo tempo di domenica. Secondo me perfettamente in linea con qualunque altro giocatore dell'Inter se preso in esame in queste tre partite. Bruno da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dottore, io ho visto la partita in televisione, trasmessa da Premium, di Inter-Roma, a parte tutto quello che si è detto dell'arbitro, eccetera, eccetera. Ma vorrei un suo parere. Ma è possibile che un cronista sia così sfegatatamente di parte di una squadra, uno che trasmette in televisione, che viene ascoltato da milioni di persone, sia sfegatatamente di parte? Cioè, disprezza, denigra i giocatori di una squadra ed esalta quelli dell'altra. Ma secondo lei, volevo il suo parere, è giusto che un telecronista faccia questo? No, se mi dice, se la domanda è giusto, mi costringe evidentemente a dirle di no, una domanda retorica la sua con risposta incorporata. Poi bisognerebbe aver sentito la telecronaca, cosa che non, insomma, non è successa a me, insomma non è il mio caso, fortunatamente. Io ricordo che per dire la secondo me la degenerazione non del calcio ma del fenomeno calcio, cioè del marketing, se vogliamo, applicato al calcio, io ricordo che il primo a teorizzare addirittura la tripla telecronica fu Giraudo, ex amministratore delegato della Juventus. Io ricordo che qualche anno fa, quando insomma, acquisì non mi ricordo che pacchetto e per quanti anni e quei diritti, ovviamente arrivando prima degli altri, combinazione, ricordo che disse: il prodotto calcio andrà offerto d'ora in poi con tre telecronache, cioè la telecronaca della squadra A, la telecronaca favorevole alla squadra A, la telecronaca favorevole alla squadra B e la telecronaca neutrale. E poi mi sembra di ricordare che o lui o qualcuno aggiunse: beh, in fondo però della terza si potrebbe anche fare a meno, no? Nel senso che questo genere di prodotto ormai è considerato per l'appunto un prodotto, cioè non è più una partita di calcio in cui, insomma, che va raccontata in base a quello che accade, no, va raccontata vellicando gli istinti, possibilmente i peggiori, di chi la sta guardando, di chi ne fruisce. E questa è l'educazione sportiva di oggi, però non è nemmeno così inedita, Antonio, e quindi o forse lei non era Antonio e sto leggendo male, l'ascoltatore di prima, sto leggendo male sul display. E non Mi meraviglia la sua meraviglia, ecco, perché credo che ormai ne abbiamo viste e sentite in tutti i colori, fermo restando che per certe telecroniche teoricamente neutrali che io sento, ahimè, anche su Sky, trovo che l'unico antidoto sia l'azzeramento dell'audio. C'è un altro romano già collegato, ma prima andrei da Orazio a Reggio Emilia. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno Garanzini. Dica. Ma io la chiamavo perché prima ho sentito un ascoltatore parlare che si è scandalizzato sulle perdite di tempo nel calcio. Ma insomma, secondo me i problemi sono veramente altri, anche perché io ricordo con molto piacere il mio papà quando veniva a vedere e faceva anche l'allenatore, che da bambini ci diceva: ragazzi, se vinciamo buttiamo la palla in tribuna. Oggi addirittura ci sono i racchettapalle che gli danno subito la palla, quindi voglio dire, queste cose fanno parte del calcio e lo rendono anche bello per questo. E quindi insomma, secondo me queste cose, anche l'arrabbiarsi, pur condannando questi comportamenti che sono anche antipatici, però pur condannandoli, secondo me fanno parte di un gioco che, sì, che c'è sempre stato. Ma infatti, sì, ma e che oggi, lo ripeto, è oggi questo tipo di fenomeno, questo tipo di scorrettezza, se vogliamo, ma è nettamente ridimensionata. Ma lei ricorda appunto quando si mandavano i palloni in tribuna per perdere tempo? Oggi hai un bel mandarlo in tribuna, c'è il raccattapalle sotto che te lo ricalcia in campo un istante prima ancora che il pallone esca, mentre una volta, quando prima l'ascoltatore mi pare chiamasse da Napoli, quando il pallone andava nel fossato di fuori grotta e il Napoli stava vincendo, prima che tornasse fuori ci volevano gli speleologi ogni tanto, soprattutto nel finale di partita. E insomma, oggi questo fenomeno davvero è molto, ma molto ridimensionato. C'è un dubbio Buffon per la nazionale, leggo, perché ha la febbre e quindi è stato avvertito in mattinata lo staff medico dell'Italia dalla Juventus, che per ora arriva ritardato in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giocatore. Dopodiché siamo un po' in ritardo perché siamo già alla 12ª giornata, ma arriva la notizia che era attesa da sto scherzando ovviamente, ma era attesa da mesi, e cioè arriva Zamparini che dice: non ho dormito tutta la notte, questa sconfitta mi ha fatto riflettere e ponderare per molte ore, ho discusso molto con la dirigenza, non mi sono dato un perché. No, Zenga non lo esonero, ma ieri ha sbagliato. Ed ieri ha dichiarato: ieri ha sbagliato, se abbiamo perso la colpa è anche sua, ha sbagliato non mettendo Pastore dietro le punte, lui invece l'ha messo a sinistra. È chiaro che un allenatore come Zamparini non si è mai capito perché non alleni direttamente lui il Palermo. Ha sbagliato anche perché non ha tolto Budan a fine primo tempo, che il croato non è ancora in condizione, ma certo, se la difesa prende gol da bambini dell'asilo, la colpa è di Zenga, sicuramente non può essere mia, in attesa che tocchi a lui andare direttamente in panchina, ripeto. Antonio, chiamato da Roma, buongiorno. Io Garanzini, buongiorno. Senta, io volevo dire una cosa su questi allenatori che, tipo Mourinho, che hanno sempre ragione loro, e anche gli opinionisti tipo Collovati l'altra sera, che i falli di Inter-Roma non andavano fischiati. Che cosa ne pensa lei? Se posso dire una cosa, siccome sono un tifoso del Torino, in seguito alla sua risposta, grazie. Non ho capito, lei è tifoso del Torino, ma non ho capito il finale però. No, siccome io volevo sapere una sua opinione sull'arbitraggio. Sì, sull'arbitraggio di... Beh, insomma, ne abbiamo parlato ieri, per la verità, Antonio. Io insomma, credo che... Resto convinto che di un arbitraggio sia lecito parlare, sia... E in certi casi sia anche doveroso, no? Sottolineare certi errori. Ok, quello di Rocchi domenica sera non è stato felicissimo, ma non è stato certamente dei peggiori. La Roma ricorda di peggio, certamente, in tempi anche abbastanza recenti, e non solo a San Siro. Secondo me 48 ore dopo non ha più molto senso. Le ricordo la statistica, indubbiamente. Il Moratti si è molto arrabbiato per l'accusa di gioco duro da parte dei romanisti, da parte di Ranieri, rimane il fatto che l'Inter ha commesso 26 falli e la Roma 12, quindi c'è una sproporzione notevole che non è rispecchiata né dal numero dei cartellini e neanche dal livello tattico di questi falli. Ma ripeto, sono discorsi di ieri. Se vogliamo parlare di San Siro, io parlerei di di questo nuovo record assoluto di presenza in Italia per un incontro di rugby. Sto parlando di Italia All Blacks, che si giocherà sabato allo stadio Meazza. Dunque, nel fine settimana, leggo, sono stati venduti le ultime decine di biglietti ancora disponibili, quindi tutto esaurito, adesso è ufficiale. E sabato a San Siro ci saranno 80.018 persone per questo match di rugby. C'è un gran bel articolo sul Guerin Sportivo di stamane, firmato dal suo direttore Matteo Marani. Tra un prome e l'altro speravo di riuscire a trovare il tempo di leggerlo. Ho l'impressione che il tempo stia scappando. Se non ce la facciamo oggi, ce la facciamo domani. Per il momento, il Sembra Ieri di Nicola Filippone. Sembra Ieri. 10 novembre 1963. L'Unione Sovietica elimina l'Italia dalla seconda edizione dei campionati europei. Agli uomini di Fabbri non riesce l'impresa di ribaltare all'Olimpico di Roma il 2-0 subito il mese precedente a Mosca, merito soprattutto di un fuoriclasse chiamato Lev Yashin. L'estremo difensore sovietico compie un miracolo su una conclusione ravvicinata di Domenghini, esordiente insieme a Burnic. Quindi, dopo che Gusarov aveva siglato lo 0-1, para un rigore a Mazzola. All'ultimo minuto, Rivera riesce a battere il fenomenale portiere avversario, fissando il punteggio sull'1-1. Qualche giorno dopo, Yashin sarà insignito del pallone d'oro, unico portiere della storia a riuscirci. Al secondo posto si piazzerà proprio Rivera. Ricordo... Sì, certo, l'età, denunciando l'anagrafe, ricordo quella partita, non ricorderei un rigore dell'altro ieri neanche sotto tortura. Ricordo benissimo come Yashin si coricò, ma con grande disinvoltura, su quel rigore di Mazzola. Si distese con grande serenità, sembrava un gattone che sapeva prima dove gli avrebbero lanciato il bocconcino e si distese con grande serenità sul prato dell'Olimpico, parando quel rigore di Sandrino Mazzola e portandosi via qualche improperio ante litteram di un ragazzino che stava guardando, assistendo a quella partita. Marco ha chiamato dalla provincia di Monza, buongiorno. Sì, salve, buongiorno dottore. Dica. Io volevo porle una domanda, magari sicuramente mi sbaglio, però ho sentito in una telecronaca domenica che il Milan avrebbe confermato l'acquisto di gennaio di un ragazzo che è spiccato nel torneo dell'Under 20, se non mi sbaglio. Mi sbaglio? No, non lo so, non ho la minima idea, Marco, perché io non ho assistito a quella telecronaca. E... perché io ho sentito questa la telecronaca appunto della partita e a fine partita hanno detto che appunto il Milan avrebbe confermato l'acquisto di questo ragazzo giovane. Sinceramente, in ogni caso si parla di gennaio, siamo ai primi di novembre, cioè già siamo sicuri che arriva Beckham, no? Mi pare, e per il momento potrebbe bastare. Poi vediamo se per caso, giusto per bilanciare magari anche l'anagrafe, se prendono anche questo ragazzino, che se è un under 20 sicuramente sarà uno che vale la pena prendere, a differenza magari di Beckham. Alessio da Perugia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io volevo farle due domande, una sull'Inter, perché l'Inter è un Inter a doppia faccia, campionato Europa. E per cui mi chiedo come mai abbia questo andamento. Mentre invece la seconda è sul Napoli, che tanto decantato dall'arrivo di Mazzarri, però non ci dimentichiamo che questa è una squadra che fino a 4-5 anni fa era in Serie B. E quindi? No, e per cui mi chiedevo che cosa volessero i tifosi, dove pensano loro che può arrivare questa squadra, come sta succedendo anche dove pensano per quanto loro riguarda la Sampdoria. Alessio, dove pensano loro è il più in alto possibile, credo che valga per qualsiasi tifoseria a qualunque latitudine, soprattutto se c'è, come in questo caso, una passione popolare esplosiva come quella napoletana. L'Inter ha un rendimento diverso in Coppa e in campionato, e anche questa è una cosa che dura da anni, che qualche spiegazione ce l'ha, ma non è sufficiente, non sono sufficienti a dare conto fino in fondo di queste trasformazioni continue. le ultime due trasformazioni sono, se vogliamo, ancora più curiose, nel senso che gli ultimi minuti di Kiev sembrava un Inter di campionato, la partita contro la Roma sembrava un Inter di Coppa, quindi vede che evidentemente è difficile trovare proprio una continuità di rendimento. Sentiamo ancora Alessandro da Milano, buongiorno. Salve Garanzini, a proposito del San Siro pieno per il rugby, io chiamavo proprio per la desolazione di vedere gli stadi italiani vuoti completamente, tipo Udinese e Fiorentina, lo stadio completamente vuoto, ma il problema sono solo gli ultra, mentre all'estero si vedono le partite con gli stadi pieni, in Spagna anche squadre di basso rango con lo stadio sempre pieno. Certo, il problema non sono solo gli ultra, il problema sì, il principale credo che sia quello, perché gli stadi non allo stadio non ci vai più volentieri, non ci vai più in maniera sicura, eccetera. Anche questo, oggi stiamo effettivamente abitando e ripopolando il pianeta dell'ovvio, mi pare, con gli ultimi interventi. Dopodiché il calcio, c'è la crisi, i biglietti costano abbastanza cari, c'è la televisione che dà le partite in diretta, se mettiamo tutto questo insieme e qualcos'altro ancora, e sullo sfondo appunto mettiamo stadi poco abitabili, poco attrattivi, insicuri e appunto questi signori che comandano le curve, insomma sarebbe sorprendente se gli stadi fossero pieni e invece trovo che sia abbastanza regolare che siano vuoti. Mi spiace perché l'articolo del Guerino, leggo una parte, il monopolio garantito Matteo Marani, il monopolio garantito dalle TV nazionali e le 3-4 B del campionato, ha azzerato lo spazio per le analisi più interessanti quantomeno prima di mezzanotte, peccato, perché dopo i risultati ottenuti ancora domenica da Bari e Parma sarebbe stato certamente più originale un dibattito su di loro che non il solito giro di opinioni sul ritorno al gol di Diego e i pareri scontati sulla potenza dell'Inter. Segue una lunga disamina sul progetto del Bari, interessante tra l'altro. A Bari, dopo l'addio burrascoso e polemico di Conte, non si sono abbattuti, hanno individuato in Giampiero Ventura il sostituto, una scelta coraggiosa tenuto conto che l'ultima esperienza come partente seriale risaliva 10 anni fa, ma Ventura aveva fatto allora giocare il suo Pisa in modo molto simile all'ultimo Bari, con un 4-4-2 in grado di ribaltarsi spesso in un 4-2-4. Questa è un'eccellente osservazione, era cioè quanto di più vicino esisteva al passato e si è così assicurato la continuità, e ad ogni buon conto si è dato fiducia a Ranocchia nel ruolo di centrale e gli si è affiancato Bonucci, anche lui a Pisa con Ventura, in due fanno 43 anni. Segue ulteriore disamina sulle scelte positive del Parma, e magari queste vediamo se ci arriviamo domani. Mi sarebbe piaciuto, conclude Matteo Marani, ripeto, in questo articolo di fondo del Guerin Sportivo, ascoltare tutto questo domenica sera, invece si è parlato di Inter, Milan e Juve. Che barba, che noia.